Salve a tutti, benvenuti. Benvenuti. Benvenuti. Stavolta sono io a cominciare e a dire io sono Jacopo. E io sono Marco. Questa cosa penso abbia appena eccitato Marco. Se avesse una coda starebbe scodinzolando. Il motivo per cui l'ha detto è per ringraziare Marco, sia in generale del podcast e dell'episodio su Pokémon, ma anche per avermi lasciato le redini di questo episodio. Molto, ci sta, è giusto. Graciously, come si dice, molto, molto gentilmente. E il motivo per cui questo, cioè, se avete letto il titolo di questo episodio, che è Vulcio Cagli, in questo episodio parleremo di Bioshock, ma in realtà, più nello specifico, di dissonanza ludonarrativa. Stavo per dirlo sbagliato perché l'abbiamo sempre chiamato ludonanza dissonarrativa per farci ridere come idioti. Mm-hmm. E quindi, Marco, cominciamo. Che cos'è dissonanza ludonarrativa? Fortuna che doveva essere un tuo episodio questo, ma no, vabbè, questo, no questo ci sta, ha ragione. No? Siccome quindi io sono l'uomo delle definizioni, a quanto pare, Wikipedia definisce la dissonanza ludonarrativa come il conflitto tra la narrativa del videogioco, raccontata attraverso la storia e i dialoghi, e invece la narrativa del gameplay, ovvero quella raccontata con le meccaniche. Quindi è quando questi due elementi cozzano tra di loro, creando della, appunto, dissonanza, dei, come si dice, come in un'armonia, un contrasto, è come in un'armonia quando due strumenti non sono ben armonizzati e quindi si sente che c'è qualcosa che non funziona nella sinfonia complessiva. Esatto, cioè la differenza fa... Qual è la controllo di dissonanza? È armonia? Assonanza. Assonanza? Non è, o consonanza? No, assonanza è vero. Assonanza. Esatto, quindi non c'è un'armonia, non c'è un'assonanza fra narrativa e gameplay. Ora facciamo un po' di storia. prima di rispondere alla domanda che avete tutti in testa, ovvero a me che cazzo me ne frega, a me? La risposta è probabilmente nulla, ma non rompeteci i coglioni. Se state ascoltando probabilmente qualcosina, però la prima curiosità che vogliamo rispondere è da dove cazzo viene questo termine, e la risposta è, come molti termini così altisonanti e brutti, da un post su un blog. C'è questo tizio che si chiama... Com'è? Cavolo, ho chiuso anch'io la pagina. Come si chiama questo qui? Ok, era... Clint qualcosa. Te lo trovo, Clint... tu continua a parlare, ti trovo Clint il nome. Hawking, Clint Hawking, trovato. Perfetto. Il suo blog bellissimo si chiama Click Nothing. Mamma giusto. Mia, che brutto. Questo qui ha fatto un post nel lontano ottobre 2007, il 7 ottobre 2007, parlando di Bioshock. E in questo blog, nel titolo di questo blog, ha coniato questo termine, ovvero questa espressione, mettendo insieme due termini. Perché? Perché nel blog parlava di Bioshock. Ora io farò degli spoiler, quindi se non avete giocato Bioshock, vabbè, punto primo, che cazzo state facendo qua? Allora a giocare a Bioshock. Dio santo, punto secondo, ormai è un gioco di 13 anni fa ed è uno dei quasi promessi sposi del mondo videoludico ormai, cioè. Madonna, sì, cioè un po' tipo Half-Life 2, cioè è un gioco che ormai giocarci è come giocare a un pilastro della narrazione nei giochi, perlomeno nei giochi di prima persona, nei giochi narrativi. Comunque, vabbè, Bioshock è questo gioco velocemente ambientato sott'acqua principalmente, in questa Rapture, in questa città quasi utopistica, basata sui concetti di questo Ryan, non mi ricordo il cognome, Andrew Ryan, stavo per dire Ryan Reynolds, lo chiameremo Andrew Ryan. Questo Andrew Ryan che in una bellissima introduzione presenta la sua filosofia, che essenzialmente è la filosofia randiana, cioè la filosofia oggettivista, la filosofia capitalista del se faccio quello, se tutti facciamo quello che è meglio per noi stessi, se tutti siamo egoisti, facciamo il bene comune, il bene di tutti. Che è sbagliato, però diciamo questo gioco si diverte un po' a immaginare una città di libertà assoluta, di potere limitato, insomma, dato ai singoli, agli individui, non, diciamo, senza un po' divagare, cioè fare un po' di piccoli approfondimenti in altre filosofie, però la cosa principale è, c'è questo Andrew Ryan, c'è questa fortissima presenza, appunto, oggettivista, e però la storia è la storia dei gameplay, come posso dire, sono un po' sorprendenti, un po' complicate. Allora, il motivo di questo articolo è che il gioco sembra presentare appunto questa meccanica di oggettivismo come una meccanica di gameplay, cioè tu, ci sono queste little sister, queste sorelline, queste piccole apparentemente bambine che vanno in giro, molto inquietanti, che vanno con una siringa a succhiare una sostanza che, vabbè, che serve per diventare potenti, per avere poteri, eccetera, poteri strani, dai cadaveri. Quindi tu vedi queste qua che vanno in giro, prendono sto liquido e se lo bevono. Però sono anche protette dai Big Daddy, che sono questi tizi enormi che sono anche sulla copertina, ce n'è uno anche sulla copertina del gioco, che sono tipo dei mini boss. In realtà più dei boss, perché ci sono pochi boss nel gioco, però sì, sono di questi mini boss molto simili fra di loro, che vanno battuti prima di poter accedere alla sorellina. Una volta battuti, questa sorellina, come ci si avvicina, ti presenta una decisione, una scelta: puoi o consumarla e quindi ucciderla praticamente ed avere molto di quella sostanza, quell'Adam che lei ha, o salvarla, ricevere pochissimo Adam. Ok, perfetto. Problemi tecnici. Piccoli problemi tecnici. Dicevamo, facciamo finta che non ci sono stati. Allora. Giustamente. Stai dicendo questo, delle sorelline, giusto? Ok, sì, questo contratto narrativo. Allora, aspetta, che cos'è un contratto narrativo? Avete presente in Star Wars quando c'è quel coso di quel muro di testo che scorre nello spazio? Diciamo che è finito quel contratto narrativo, tu l'hai firmato, cioè se continui a guardare accetti che quella è la verità. Come quando guardi Blade e accetti che Wesley Snipes è un figo. Cioè, accetti una cosa, la dai per giusta e dici: ok, ho firmato, ora fammi divertire. È un po' quella suspension of disbelief di cui si sente parlare, intendi quello anche? Più o meno, sì, è una cosa però che di solito è quasi, cioè, volutamente, cioè tu lo fai volutamente, no? Cioè tu non hai suspension of disbelief, scusami, automatica. Cioè tu dici all'inizio, fai uno sforzo per accettare una cosa non proprio, diciamo, facile da accettare. Però diciamo, questo primo contratto narrativo con le sorelline, al tizio che ha scritto questo post sul blog va bene. E c'è un altro contratto narrativo però che a lui non va bene. C'è un plot twist enorme nel gioco. Che ancora dopo più di 13 anni non possiamo ancora spoilerare. Però ormai è spoilerato nel titolo, quindi allora. Effettivamente. Effettivamente siamo dei cani. Comunque sì, allora, il contesto è questo: tu arrivi in questa Rapture, in questa città sott'acqua utopistica, e vedi che è tutto distrutto, tutto in rovina, pieno di gente quasi, cioè dei mostri mutati, delle cose così, queste sorelline, un casino. Però c'è questa voce di Andrew Ryan che ti fa intendere che ancora è vivo e che è un pezzo di merda. C'è un'altra voce, fin dall'inizio, che ti vuole aiutare, che sembra un po' guidarti, no? In questo territorio inesplorato, che è la voce di Atlas. E già dal nome, uno che c'ha un po' di cultura doveva capire che non finiva tanto bene. Però vabbè, sì, questo Atlas, che appunto si rifà, penso, al mito di Rand, di questo uomo perfetto, in realtà sembra un uomo comune all'inizio che ti vuole aiutare, così, e già, secondo il tizio che ha scritto questo blog, si va un po' contro quella che voleva essere la curva della narrativa del gioco, perché il gioco sembra dirti: aiuta questo tizio per vincere, cioè aiuta questo Atlas per diventare più forti, non aiutare te stesso, che dovrebbe essere un po' l'idea iniziale del gioco, ma non hai scelta, non puoi scegliere di non aiutare Atlas, devi di fare il tuo interesse e basta nella trama all'inizio. Perché, ora, per me questo è stato un colpo di genio, per questo tizio no, e capisco il suo punto di vista, perché a una prima lettura tu stai giocando questo gioco in prima persona e come in tutti i giochi, io devo diventare più potente, io devo ammazzare il nemico, c'è questo Andrew Lyon che mi sta, come si dice? Ostacolando, mi sta prendendo in giro, mi sta sul cazzo, essenzialmente. E quindi voglio ucciderlo, e quindi devo diventare più potente, devo avere più poteri, e questo è un po' oggettismo, cioè diventare più potenti, no? Anche se stai salvando le sorelline, comunque lo fai perché magari vuoi dire, io voglio essere il buono, io voglio essere l'eroe, e comunque mi danno lo stesso il potere, cioè comunque divento più forte. Arriva a un certo punto che il gioco ti dice sei un pezzo di merda. Perché? Perché se non stai attento, se non stai con gli occhi e le orecchie ben aperti, non ti rendi conto che in realtà Atlas ti sta manipolando, che tutto quello che stai facendo lo stai facendo in automatico perché sei abituato nei videogiochi a seguire quello che il gioco ti dice. Ok, abbiamo un nuovo amico che si chiama Jark. E non è canadese ma è francese, quindi è ancora peggio. Ok, e perfetto. Non crashi, a quanto pare risponde al posto di Craig. Però adesso stanno registrando entrambi, quindi... Non importa, uno dei due funzionerà. Buono a sapersi. Benvenuto Jark. Allora, dicevamo, cominciamo un attimo il discorso, ok? Quindi, a un certo punto della storia scopri che Atlas ti stava manipolando. Quindi appunto se tu sei abituato con i videogiochi a seguire questi obiettivi che ti dà il gioco ti prende un po' per il cuore, ti dice tu hai seguito questi obiettivi senza stare attento, senza chiederti perché, e Ryan dicendoti appunto per cortesia would you kindly e dicendoti poi che ne so colpiscimi o prendi la mazza così, ti fa capire che quel comando per cortesia era quello che stava usando Atlas per ordinarti di fare cose. Quindi tu non avevi davvero scelta di farle. Non stavi servendo te stesso, ma sei un personaggio che nella storia gli hanno fatto il lavaggio del cervello per essere utilizzato da Atlas. Quindi Atlas ti ha creato essenzialmente. Non era stata una coincidenza che sei finito lì, era tutto per i suoi scopi. Atlas è comunque un pezzo di merda, eccetera. Ora, posso capire la cosa che ha dato fastidio a questo tizio che ha fatto il blog, tanto da creare questa parola, questo termine, nel senso che il gioco non ti dà davvero una scelta, tu non hai scelta di riconoscere quello che sta succedendo, di andare contro Atlas. Il gioco non ti dà scelta di fare il tuo gioco invece di fare il gioco di Atlas o il gioco di Ryan o che cazzo ne so. Ma la cosa, secondo me, che è davvero problematica è che non ti dà scelta dopo. Cioè, il tizio che ha scritto il blog, secondo me, ha un po' ignorato l'effetto che ha avuto questa cosa nel gioco. Cioè, l'effetto che... Tu dici è giusto che non ci fosse scelta almeno era nella prima parte. Era giustissimo, cioè l'unico modo per non fare quello che ti diceva Atlas era smettere di giocare. Era giusto Vero. Che fosse così, era giusto che tu non avessi neanche la concezione come giocatore a quel tempo di cosa vuol dire scelta, di cosa vuol dire, perché lui ovviamente lui è un esperto, cioè lui è uno che lavorava nell'industria già a quel tempo, questo Clint, no? Quindi aveva il retroscena, aveva la capacità, aveva la conoscenza per riconoscere quello che stava succedendo e non ha, come posso dire, secondo me non ha riconosciuto la potenza di quel momento. Perché io quando sono arrivato lì ho detto, cazzo, cioè è stato come, non lo so, come per me è stato il mio Psycho Mantis. Cioè diciamo, sotto molti punti di vista, cioè è stato veramente un momento che ho detto, cazzo, cosa può fare un videogioco a livello di... manipolazione di, cioè proprio con il gameplay anche, non solo con la storia. E Mi ha emozionato. Il problema secondo me è più dopo, cioè quello che succede dopo è meno potente sotto qualsiasi punto di vista, sia dal punto di vista di trama, dal punto di vista di gameplay. Il boss finale, l'omino dell'Ode, degli Oscar argentato, fa schifo. Cioè è un gioco che poi va a calare, purtroppo, secondo me, dopo quel momento di potenza narrativa. Cosa che è un po' il contrario di Bioshock Infinite, che pure vi invito a giocare, che ha un po' lo stesso problema, ma il finale è esplosivo, il finale è una cosa incredibile. Bioshock Infinite, secondo me, è superiore a Bioshock sotto molti punti di vista. Forse non il gameplay, che è solamente tutte orde e così. E niente, anche Craig ha fallito, però abbiamo ancora Jark, che continua a registrare, quindi continuerò a parlare finché non muore anche lui. E niente, quindi capisco quello che vuole dire, però non sono d'accordo sulla parte che gli ha dato fastidio del gioco, diciamo, perché la vera distanza narrativa è dopo. Ma quindi tu sei d'accordo nel dire che c'è questa dissonanza narrativa o è lui che si sta sbagliando in questo caso? C'è, ma c'è dopo. Ok, quindi tu dici ha sbagliato solo il dove, come dire, il dove metterla questa dissonanza, diciamo sì, perché a così. livello di gameplay il darti la scelta per le sorelline ci sta, perché non è una cosa che interessa. Non è una cosa che Atlas vede come rilevante. Atlas non si spreca a farti intuire quello che sta succedendo. Non spreca gli ordini, Atlas. E il gioco non spreca la libertà che ti dà, secondo me, o la libertà che non ti dà in questo caso. Quindi, diciamo, la prima metà del gioco, secondo me, è ben fatta, cioè ha un grandissimo impatto narrativo, e anche a livello di dissonanza ludonarrativa ce n'è poca. Ce n'è poca. Bene, detto questo, quindi abbiamo Beh, detto questa è che stata stasera. l'origine, no? Questa è stata da tutto quello da cui è partito tutto per quanto riguarda la dissonanza ludonarrativa, giusto? Esatto. Non so, tu hai giocato a Bioshock, tu cosa ne pensi? Sì, io ho giocato a Bioshock e poi un pochino a Bioshock 2, ma mi sembra di non averlo mai finito perché era, come dire, non so, era in quegli anni in cui forse non apprezzavo ancora tutta la profondità che ci poteva essere in certi giochi. Ah, profondità nel mare. Scusa. Mamma mia, Che mi brutto. hai traumatizzato, ho perso il filo del discorso. No, dicevo, ho giocato a Bioshock, mi è piaciuto molto, purtroppo, per come molte altre cose nella mia vita, mi sono accorto, alla fine mi ero spoilerato già un po' di roba, quindi l'impatto del colpo di scena finale ha avuto molto meno effetto su di me, perché purtroppo mi ero già un po' spoilerato alcune cose. Quindi non ho avuto la tua stessa esperienza di restare emozionato così tanto dal finale, però sì, anche io ho trovato molto interessante questa scelta narrativa e assolutamente ben fatta. E come dicevo, a quel tempo lì non facevo ancora molto caso a eventuali dissonanze ludonarrative e quant'altro. Per cui Bioshock mi è piaciuto molto. Poi purtroppo io, una cosa che mi aveva frenato anche da giocare, che non sono il tipo da sparatutto, quindi comunque non sono un tipo da sparatutto in prima persona in generale, quindi non ho fatto fatica a giocarlo un po' anche per quello. Però no, la storia era veramente scritta bene fino a quel punto lì, decisamente. Ci sta. Questo è il mio parere su Bioshock. Però, come dicevamo prima, la puntata non è su Bioshock in questo Vabbè, ok, caso. esatto. Diciamo che No, no. in generale, per cortesia, andate a giocare a Bioshock. Anche il 2 e anche Infinite. Ci Però sta. sì, non è su Bioshock, hai ragione. La cosa che volevo dire è che, non so, tu adesso hai detto che quando l'hai giocato magari non avevi troppo un apprezzamento, cioè non apprezzavi troppo queste cose più profonde, cioè. Bioshock, io l'ho apprezzato, cioè quel momento mi ha fatto esplodere il cervello, pur non avendo le parole per descrivere quello che mi era successo. Non so se questa cosa ti sembra un po' rappresentativa di quello che hai provato, no? Quello che ti ha lasciato il gioco. Penso che sia uno degli esempi maggiori in cui viene usato il mezzo proprio del videogioco per raccontare la storia, perché è un po' come quando si parla di fotografia in un film, no? Che il film usa le immagini per raccontare una storia, ma a volte riesce a fare in modo che l'immagine stessa che usa, esatto, per raccontare la storia racconti a sua volta un'altra storia. Esatto. E penso che questo sia stato l'esempio, uno degli esempi più lampanti e ben fatti di quando il videogioco, inteso come meccaniche stesse del videogioco, raccontano a loro volta una storia dentro la storia, praticamente. Ovvero di come noi ogni tanto non quando prendiamo cose per come si dice, per concrete, per come già queste, no, quando ci convinciamo già di qualcosa non facciamo neanche caso a volte a vedere che sotto ci può essere altro, che cosa può essere, che cosa c'è dietro la libertà, la libertà intesa come, oddio non mi sta venendo la parola, free will, no? La libera scelta, praticamente. Libero arbitrio, sì, libero arbitrio, grazie. E cioè, come dicevo... Che... Sì, no, scusami, di pure. No, sono d'accordo, cioè, è un gioco che ti spinge un po' ad andare... Usa troppo gli stereotipi del mezzo per dire guarda oltre le indicazioni, guarda oltre i personaggi che ti sembrano aiutarti o sembrano darti un obiettivo. Guarda, cioè pensa a che obiettivi sono, pensa a dove stai andando, pensa a cosa ti sta succedendo. Non mi sembra un gioco così che ti percula, cioè non è un gioco che ti perde per il culo, secondo me, è un gioco che ti vuole un po' spingere a pensare a ok, non è solamente un obiettivo, è qualcosa che ti forma. Cioè, le cose che ti devi fare il gioco, contestuali o no, il gameplay di un gioco è una cosa che ti influenza, è una cosa che ti... che non è da ignorare, insomma, all'interno di una narrativa. È una cosa bellissima, secondo me. È una delle poche storie raccontate da un videogioco che faccio veramente fatica ad immaginarla raccontato da un qualsiasi altro media. Secondo me è una storia che poteva essere raccontata con un videogioco e non in altra maniera. Ed è una cosa ancora purtroppo molto rara ancora di questi tempi, secondo me. Esatto. Però comunque, cioè, nel senso, i giochi sono stati un po' cambiati da Bioshock, hanno cominciato un po' più a parlare di videogiochi, a fare meta commentario. Ultimamente, come diceva anche l'autore di questo articolo che abbiamo referenziato, lui non stava facendo una recensione di Bioshock, ma una critica di Bioshock, perché appunto oh, di recensioni ce n'erano già tante, ma di critica, esatto, sui videogiochi ancora poca. Esatto, perché è questo a cui volevo arrivare, cioè il motivo di questo episodio e il motivo per cui prima ho detto non avevo le parole per descriverlo è il motivo per cui mi piace questa parola, perché questa frase, vabbè, questo modo di dire, perché dissonanza ludonarrativa è un modo di dire, un'espressione talmente sapio, talmente... c'è quello di critica del cinema, capito? Quella critica altisonante che usa termini che nessuno capisce che cazzo vogliono dire, cioè... C'ha quel sapore di spocchioso, di snob, che io mi ci rigiro. Cioè, nel senso, è una cosa che manca ai videogiochi. Cioè, ok, tu dici, non è la parte migliore del cinema, la critica di cinema, effettivamente, però... Dovremmo chiamare Roberta, dici. Dovremmo chiamare Roberta, cioè, quella rubrica sapio sui videogiochi. Però, cioè, avere la possibilità di fare critica, cioè di studiare i videogiochi, di... creare termini che non esistevano, cioè dei modi di dire, delle espressioni per descrivere quello che fanno i videogiochi, è il primo passo verso l'evoluzione, verso l'andare oltre, verso il metabolizzare quello che sta succedendo e farne una critica anche, cioè per migliorarlo, si spera, perché alla fine, cioè, la cosa che manca di più secondo me al discorso dei videogiochi sono arte, è poterne parlare come arte in maniera poco ambigua, perché è pieno, cioè i videogiochi sono pieni di cose che non riusciamo a descrivere. Adesso un po' di meno, perché abbiamo cominciato un po' a studiarli, ci sta ricerca sopra, c'è gente che appunto lo studia come una materia, sia a livello di come farli, ma anche proprio a livello di solamente oggetti di studio, capito? Che è una cosa impensabile 20 anni fa. E secondo me parte del motivo per cui questa cosa ha cominciato a venire fuori è per questo termine, cioè è per questo che a me frega di questo termine, non me ne frega un cazzo se di cioè parla di Bioshock, cioè me ne frega che qualcuno è uscito e ha detto ok, mi invento questo termine del cazzo che è cioè, assurdo e snob e sapio, però almeno mi aiuta a parlare. C'è questa cosa che si chiama qualia, mi pare. Mi pare sia qualia. Cioè, qualia vuol dire una cosa che non esiste ancora un modo per descriverla. È qualcosa che ancora non è stata definita. E nel momento in cui viene definita, smette di essere un qualia. Dici, ah, cazzo, ecco cos'è. E che continuamente vengono fuori concetti che sono... che erano dei quali, insomma, vengono fuori di questi concetti, tipo appunto dissonanza autonarrativa, non so, microaggressione, non so, mi vengono in me, beh, tanti esempi ci sono di questa cosa. E vabbè, quindi vabbè, fatto questo mega discorso filosofico per dire, anche se vi fa schifo, diciamo, questo spirito sapio, questa parola incomprensibile, comunque, secondo me è positivo che ci sia. È una bella cosa, insomma, un bel effetto per il fa un bel effetto ai videogiochi, all'industria. Ok. Detto questo, è forse stata, non dico la prima volta, ma una delle volte, la prima volta in cui si è sentito molto in cui i videogiochi sono stati presi un po' più sul serio, questa. Questo esempio. Sì, non una delle prime, però cioè è stato un momento importante in quell'evoluzione, in quel discorso, secondo me. Perché un conto è studiare il level design di Doom e capire perché fa schifo. Un conto è studiare un'opera perché è un'opera d'arte e va criticata. Cioè va, come dire, va criticata anche se la ritieni buona. Non so come... Va definita, va spiegata. E qua forse entriamo in concetti più filosofici del tipo cos'è la critica, cosa serve. Cos'è l'arte. Andate ad ascoltare il podcast di Salla per quello, magari. Il mio Sallotto, trovate qui, mettiamo il link in descrizione. Non esatto. È vero. non vogliamo fare troppa pubblicità. Ok, allora. Quindi abbiamo, come al nostro solito, abbiamo definito... l'oggetto di questo episodio, abbiamo detto da dove anche è partito tutto, qual è il passo successivo? Quindi ci sono altri esempi lampanti di questa ludonarrativa? È utile a qualcosa? Bisognerebbe usarla, bisognerebbe non usarla, Jacopo? Dissonanza, allora. Scusa, ludonarrativa. Allora vorrei prima parlare un po' dei vantaggi di avere della dissonanza ludonarrativa nei videogiochi e gli svantaggi di avere. Secondo me esistono esempi di giochi che l'hanno, che hanno un esempio di dissonanza ludonarrativa, ma è bene che l'abbiano. Cioè, è un bene che ci sia, perché... Beh, da come hai descritto, lo stesso Bioshock nella prima parte era giusto che avesse questa dissonanza. Per esempio, bravissimo. Esistono anche giochi che non l'hanno e dovrebbero averla. sono pochi. Esistono giochi che non l'hanno, non devono avere. Cioè, quindi di solito è una cosa negativa, diciamo. Però prima che ti sfugga l'idea, dimmi subito un gioco che non ce l'ha ma dovrebbe averla. Ne avevi uno in mente o... Secondo me, fammi pensare. No, vabbè, se non ce ne avevi, se vuoi arrivarci dopo, non è un problema. Ci devo pensare perché ci sta. Dovrebbe interrotto il discorso, ti ho interrotto il ritmo. Continua, riprendi a parlare. Dicevamo, vabbè, facciamo esempi di giochi che l'hanno e non dovrebbero averla. Diciamo che dovrebbero essere un po' più, appunto, vabbè, Bioshock, come ho detto, la seconda parte doveva essere un po' più in linea con appunto con l'idea, con la narrativa, come si sta evolvendo, ma esistono esempi molto più letteralmente esplosivi, tipo Uncharted. Marco, perché Uncharted ha una dissonanza ludonarrativa? Allora, lì, anche lì ci sono, come dire, opinioni non del tutto... Oddio, ho perso la parola. Delle opinioni contrastanti tra di loro. Però, in generale, la critica maggiore per Uncharted è che il protagonista che alla fine vuole essere il good guy, no? Il classico un po' eroe dei film azioni all'americana, se finisce per fare una strage, un genocidio di tutti quelli che si trova di fronte, esatto. Per cui, come dire, è un po' a metà tra l'essere Indiana Jones e Hitler da un certo punto di vista. Sì, esatto, c'è questo Drake che è il protagonista, che è un figo che cerca tesori, così vuole scappare dai cattivi, eccetera. Poi nel gameplay non solo i cattivi sono davanti a lui. Cioè, lui non è che arriva in un posto e dice l'ho scoperto io. No, i cattivi sono sempre già lì. Ma poi fa una strage, cioè ammazza tutti, è immortale, cioè... E per fare un riferimento a quello che dicevo prima, non si può neanche fare l'esempio di... Cioè, lui vuole essere un po' l'Indiana Jones di turno, però è fatto in maniera diversa, perché Indiana Jones non andava in giro a uccidere la gente, lui cercava di fare qualcosa, e poi gli arrivavano i nazisti addosso, e per volontà dell'universo più che sua, alla fine i nazisti morivano, non che lui sparasse particolarmente contro di loro, almeno non più di tanto. Qui invece è proprio Drake che non si fa, come si dice, non si fa remore a riempire di piombo questi bastardi. C'è la famosa teoria che Indiana Jones è completamente inutile nella trama del primo film. Cioè, proprio, se togli Indiana Jones, comunque i nazisti gli si scioglie la faccia. Ok. Secondo me, se togli Drake, è meglio. Cioè, nessuno muore, nessuno trova i tesori. Cioè, non cambia nulla se non che c'è più pace, ci sono più persone vive. Comunque, vabbè, ok. Tomb Raider fa la stessa cosa. Cioè, è tipo Uncharted, però... Almeno Uncharted non ti fa sentire in colpa per Drake. Nel senso che almeno non cercano di... come posso dire? Di rendere reale quello che sta succedendo. Non so come dirlo. Cioè, l'unica cosa reale in Uncharted sono le relazioni fra i personaggi principali. Perché se provassero a dire... Ehi, ma vogliamo parlare del fatto che hai appena ucciso 100 persone? Cioè, Uncharted finirebbe dopo un'ora che tu stai in prigione a vita, cioè vieni ficcato in prigione con il gas. Però la cosa di Tomb Raider è bella, o meglio, brutta e divertente, che provano a farlo, cioè provano a dire, cavolo, Lara Croft ha appena ucciso una persona, sto parlando del reboot, E c'erano tutti quanti questi messaggi, questi... video promozionali, questi trailer che facevano vedere lei dallo psicologo che parlava del fatto che aveva ucciso questa persona, quando tu in realtà nel gioco già ne uccidi tipo a dozzine e poi comunque nel secondo gioco ne uccidi altre dozzine, non cambia nulla, cioè non c'è un davvero, cioè quindi è ancora peggio perché ci provano, no? Cioè lo fanno entrare ancora di più nel discorso. Poi c'è GTA 4 così, let's go bowling, che secondo me è stato uno degli esempi post Bioshock più lampanti, cioè più immediati, perché il gioco è GTA, nel senso vai in giro, schiacci la gente, schiacci, cioè vai in giro tipo prendi le prostitute e poi le uccidi per riprenderti i soldi, tutte quelle cose che si fanno in GTA che sono normali. Voglio dire, classica scampagnata in città, direi. Sì, cioè, tutte queste cose che anche nelle missioni ci sono, no? Cioè, ammazzare, sparare, fare esplodere gli aerei. E la trama è tipo, che brutta la guerra. Cioè, la trama è un dramma... Cioè, a parte alcuni personaggi divertenti, così un po' satirici come al solito, cioè, il protagonista è veramente... cioè, ti deprime il protagonista. Cioè, ogni volta che apre bocca è come sentire un documentario sul Kosovo. Cioè... È una cosa, per carità, giusta, realistica, così, però è troppo realistica per un gioco come GTA. Quindi c'è questo personaggio bipolare che durante le cutscene, cioè filmati, è in un modo, poi appena finiscono, cioè va in giro a dare i pugni in testa alle vecchiette. Non lo so, cioè, tu dici è un problema tuo, cioè nel senso è un problema che tu come giocatore dovresti... non dovresti picchiare le vecchiette, però si potrebbe anche dire che GTA è un gioco che ti spinge a picchiare le vecchiette. Cioè, io quando vedo uno stand di hot dog devo andarci sopra con la macchina, non può restare lì impunito, nel senso, non lo so, cioè, secondo me GTA è un gioco che proprio per come è fatto ti dà questa impressione di puoi fare quello che vuoi, puoi essere, cioè, ovviamente le conseguenze ci sono, ci devono essere, quindi la polizia ti viene a cercare, cioè ti butta i carri armati in testa, però non lo so. Però lì secondo me va fatta anche un'altra piccola distinzione, cioè è vero, in questo caso c'è della dissonanza narrativa, però un conto, secondo me, è comunque una cosa diversa rispetto a quella di Bioshock, perché sinceramente credo che sia molto più importante che non ci sia quando c'è una dissonanza con il tema centrale della storia. Per esempio, dicevi in Uncharted, nessuno si fa troppe domande sulle persone che uccide, eccetera, eccetera. Perché se nel mondo vero sarebbe una cosa a cui ci si pensa, un po' sempre facendo un contratto narrativo, no? Questa interruzione dell'incredulità, lì decidiamo di concentrare la storia sui rapporti che ha Drake con le persone che gli stanno intorno, con le persone che ama, e semplicemente addobbiamo questa narrazione con un po' di gameplay d'azione che cerca per mantenere interessato lo spettatore barra giocatore. Quindi sì, c'è dissonanza ludonarrativa tra il gameplay e il personaggio che vorrebbe essere Nathan Drake, però diciamo la storia non è concentrata su questa cosa, nel senso che non si mette in discussione la morale di Drake o se è giusto o no uccidere persone, no, che come dire, non è quello il punto della storia, quindi forse lì si sente un po' meno. Era solo per dire questo, che anche se c'è della dissonanza ci può stare, te la fai andare bene perché è giusto così per divertirsi un po', mentre in Bioshock si sente molto di più perché il tema centrale della libera scelta, del controllo, di che cosa è giusto o sbagliato, se essere egoisti o pensare al bene comune, fa proprio a scontrarsi con questa, nella parte finale del gioco soprattutto, questa dissonanza tra storie e meccaniche. Questa è la mia opinione. No, è giusto, cioè ci sono diversi gradi di gravità. Certamente. Effettivamente. E infatti alcuni giochi di cui poi volevo parlare velocemente è tipo Brutal Legend, cioè che sono giochi che a me sono piaciuti, però hanno un po' questo difetto, hanno un po' questa dissonanza, ma è lieve. Brutal Legend c'era solamente da un certo punto in poi, e anche Alan Wake poteva essere fatto meglio a livello di gameplay, secondo me. Però c'è un gioco di cui non possiamo parlare, cioè The Last of Us 2. Scusami, anche Zelda Breath of the Wild c'era questa cosa della dissonanza, secondo me. Però vabbè, tutti gli Zelda lì, però Madonna. Anche lì c'è. Zelda è molto meglio di altri giochi che ci vanno. Forse Skyrim è peggio. Perché vero. Molti giochi open world hanno questa cosa che hanno 200 miliardi di side quest, di missioni secondarie, e una di queste side quest di solito è raccogli 500 miliardi di queste cose, tipo di queste radici, di queste Ninrut o di queste coro, di questi semi di Korok. E quindi c'è questo personaggio che, cioè, ci sta il cattivo che aspetta, dice, cioè, ma questo che sta a fare? E vedi questo personaggio che tipo tira le rocce dalle montagne, si butta dentro i laghi così per raccogliere questi semi, ma perché, cioè, anche quella secondo me è una cosa quasi inevitabile in molti giochi. C'era un video bellissimo di ProZD che prendeva per il culo questa cosa, in cui c'era il protagonista che si scontrava con il boss finale, cioè, ah, finalmente sei giunto al mio rifugio, è l'ora della resa dei conti, e il villain, il cattivo che muore subito, ah, com'è possibile, ho collezionato tutte e 500 le uova, titoli di cosa. No, c'era anche un altro video dove diceva aspetta un attimo e tipo andrà in un'altra stanza. Tipo, dove vai? Aspetta. Lì purtroppo è quella cosa che vogliono fare tutto, vogliono mettere, vogliono creare dramma, vogliono creare, come dire, tensione, dicendo il mondo sta per finire, creando un limite temporale alla storia e poi dopo dando però tempo illimitato al gameplay del giocatore. Ci sono stati, perché ricordiamo che c'è stato anche uno Zelda che non l'ha fatta questa cosa, che c'è stata Majora's Mask, che se non sbaglio avevi letteralmente il limite di tempo. Per, sì. Per salvare il mondo, ed è stato odiato da suo zio. Secondo me un'altra soluzione è aggiungere un endgame, ma questo ne abbiamo parlato in un altro episodio. Quindi, un'altra di quelle dissonanze ludonarrative che probabilmente forse quella a cui importa meno a tutti questa cosa qua, perché hai preso il gioco, ci vuoi giocare. Forse qui ci sta. Forse qua ci sta. Forse questo è un esempio positivo di dissonanza ludonarrativa. Ci può stare. In cui ci dovrebbe essere, ma non c'è, magari ci sono giochi che non hanno queste meccaniche e sono peggio per non averle. Comunque, ok. Volevo fare un esempio di un gioco dove c'è dissonanza ludonarrativa ed è positiva. E è un gioco che non molti hanno giocato, che secondo me è un gran peccato. E il gioco si chiama Hitman. È una serie di stealth. Oddio, stealth dipende da chi chiedi, però sì, di solito stealth. Uccisioni furtive, tu sei un assassino su computer. E l'avrei definito quasi più un puzzle game, sinceramente. Vero, esatto, perché la cosa è a metà. Hitman... La cosa per Hitman è che per uccidere il tuo bersaglio in questi vari ambienti molto, di solito molto vasti, hai delle possibilità infinite. È un gioco di sistemi, è tutto un gioco di simulazione quasi, di personaggi che hanno una loro routine, una loro lista di cose che devono fare, che hanno dei, appunto, degli obiettivi anche loro, e tu cerchi un po' di inserirti, di capire come ucciderli. La cosa bella di Hitman, secondo me, a parte il gameplay, a me piace tantissimo, ma è proprio l'umorismo di Hitman, che molti non, magari non conoscono. Cioè, tu ti immagini Hitman, dici, sì, quello lì con la cravatta che uccide le persone il pelato, col codice a barre. Però, cioè, vedere quel mascellone senza espressione, vestito da chef, infiltrarsi in una cucina e nessuno che gli chiede, ehi, ma tu non sei lo chef che era qui un secondo fa? Mentre c'è una gamba di quello chef che penzola dal frigorifero, cioè c'ha un umorismo, una specie di un misto fra l'umorismo, quello stupido, quello proprio scemo, appunto, del travestimenti, queste cose, qui c'è questi intelligenze artificiali che ogni tanto fanno cose strane, cioè a questo divertimento un po' così, ma anche un po' di umorismo più freddo, più black humor quasi, no? Cioè, esatto. più satirico, che a me fa morire. Cioè, c'era solamente questo gioco, c'era un umorismo talmente particolare. Ora, per fare un piccolo download update in mezzo alla puntata, giusto che ci siamo dimenticati di nuovo della rubrica. Allora, io ho una piccola notizia che riguarda questo sviluppatore. Lo sviluppatore di Hitman si chiama IOI, IOI Interactive, e è stato appena ingaggiato dopo aver acquistato da Square Enix la licenza per Hitman, perché loro lo sviluppavano, ma non era loro il nome, diciamo, la proprietà intellettuale. Se la sono ricomprata, quindi ora sono indipendenti, e hanno fatto, secondo me, con questa licenza indipendente, i due capitoli più belli, che sono gli ultimi due, cioè Hitman 1 e Hitman 2 nuovi. Andatevi a giocare se potete. Ma quello che faranno ora, cioè, sono stati ingaggiati da i tizi che hanno James Bond, non mi ricordo come si chiamano, per fare il prossimo gioco di James Bond. E io non vedo l'ora. Cioè, con Daniel Craig? Cosa... Eh? Con Daniel Craig? No, sarà un Bond nuovo, una cosa nuova. Sarà quasi una specie di origin story, cioè di come un agente si prende la doppia O, quindi diventa James Figo. Bond. E quindi c'è doppio zero, scusa in italiano. E quindi, cioè, non vedo l'ora, perché non mi prima di tutto non mi immagino come sarà un gioco di James Bond fatto da loro, però in un certo senso me lo immagino, cioè mi immagino una cosa più sistematica, cioè più sottile del gioco sparatutto che abbiamo avuto finora di James Bond. C'è una cosa più, appunto, più con più possibilità, più libera. Tu avevi qualche novità da fare in download update? Che io ricordi no. Se il pubblico interessa, sono arrivato platino in TFT. Notizia internazionale. Andate a giocare a Bugs Next se volete un altro Pokémon. Abbiamo già detto la volta scorsa questo, o sbaglio? Ah sì? Mi sembra di Già? sì. Mi Abbiamo un sembrava nuovo di sì. gioco di Pokémon da consigliare? Forse Hitman. Andate a giocare Hitman. Collezionate tutti quanti i costumi. Ci sta, può starci. Quindi dicevo, è bello perché appunto hai questa storia ultra seria di intrighi internazionali e queste figure. Ah, questo è il capo della moda internazionale, questo qui è Il presidente della moda mi fa molto il ridere. CEO della moda, Il esatto. CEO della Questo moda. è il generale di Fashion police. Stoccarda. Cioè, e poi appunto dentro il gameplay c'è questo umorismo dilagante, anche queste scenette patetiche di persone completamente, boh, sai quando proprio sei cieco, non vedi la fisionomia delle persone, cioè riconosci le persone in base ai vestiti che portano. Come qua Marco che riconosce le persone da... Tutte le persone femminili che entrano in chiamata sono Sara per Marco. Ah, Che a ok. me fa morire, non so, Ci vabbè. sta, ci sta. Comunque, ok. Ci so, ci Invece, c'era, avevo trovato anche una volta la striscia comica di Hitman che uccideva una donna e prendeva i vestiti, e poi dopo c'era la scena del marito che tornava a casa e non riconosceva la moglie, che in realtà era agente 47 travestito. esatto. E poi era lui, cioè poi anche lui era agente Giustamente, 47, è vero. naturalmente. Ok, invece parliamo ora di giochi che non hanno dissonanza. Allora, non mi sono venuti in mente esempi di giochi che non hanno dissonanza e dovrebbero averla, però, Ok. ed è una cosa negativa, però abbiamo molti esempi di giochi che proprio non hanno dissonanza ed è una cosa positiva, è una cosa bella, secondo me. Allora, Battlefield 1, allora, devo dire che è complicato parlarne perché so di molti che si sono lamentati di come è stata rappresentata la Prima Guerra Mondiale, però c'è una scena famosa all'inizio in cui tu sei appunto un soldato nelle trincee nella Prima Guerra Mondiale, stai sparando, eccetera, e poi muori. E la cosa che ti aspetti è che in un gioco del genere c'è questa frase, no? Che appare come in Call of Duty, una frase, una citazione storica di un leader, un generale o un filosofo, e poi rinasci da un punto precedente, da un checkpoint precedente. Invece no, quando muori appare un nome, una data di nascita e una data di morte. E quello era un vero soldato della Prima Guerra Mondiale che è morto nella Prima Guerra Mondiale, in quella battaglia. Il gioco ti costringe a riconoscere che quello è finito, è morto lì, non è andato più avanti, non ha avuto un'altra possibilità. E ti mette nei panni di un altro soldato. Non ti permette di tornare a giocare quello precedente, non so come dirlo, cioè, è Tu finita quella storia. dici non c'è dissonanza ludonarrativa della morte del protagonista in questo caso, perché alla Esatto. fine tutti i giochi in cui prevedono che dopo la morte del personaggio si ricaricasse la partita oppure ti fa ricominciare da un punto di salvataggio è in un certo senso una specie di dissonanza sempre, no? Perché se la storia dice devi compiere questa missione e però ti permette anche di morire, no? C'è questa dissonanza tra il fatto che tu devi completare la missione e la storia prevede che tu non muoia nel farlo, che lasciarti morire appunto è una contraddizione con la storia, no? È quello che stavo cercando Esatto. di dire. Per cui anche lì, altro tipo di dissonanza ludonarrativa che però ormai accettiamo che va bene, ce ne facciamo una Sì. ragione. Cioè, sembra quasi allo stesso tempo voler dire, ah, questo soldato morto così eroicamente, no? Con queste citazioni. Poi, ah no, ok, rinasci, perché hai questa specie di fortuna infinita, no? Sì, infatti. Perché sei sempre in qualche modo incolume, no? Perché vai sempre avanti. Comunque, vabbè. Lì a quel punto si diventa un po' quelle persone che vanno, cioè, ma la fisica in Star Wars non funziona proprio così, cose del genere. Ci No, però ci sta che questo gioco l'abbia fatta. sta. No, dicevo nell'altro esempio, nell'esempio, cioè, se ci si lamentasse anche della dissonanza nei giochi, per esempio, che ti permettono di rinascere dopo essere morto o dopo Ah, una no, no, sconfitta, certo. poi a quel punto si diventano come quelle persone che si lamentano la fisica nei film, delle leggi della chimica, cose del Tra genere. l'altro, proprio oggi stavo guardando un documentario su The Mandalorian, dove parlano, insomma, a un tavolo parlano Jon Favreau e Dave Filoni, che sono quelli che hanno creato The Mandalorian, che è il telefilm di Star Wars, per chi non l'avesse visto. E c'è un discorso bellissimo che fa Dave Filoni a un certo punto sui prequel e sulla storia un po' di Star Wars, parlando di due dei film peggiori, penso, per i fan di Star Wars, cioè Episodio 1 e Episodio 6. Anche se Episodio 6 è stato un po' accettato nel tempo. E questo discorso che fa è, vabbè, a parte che è bellissimo, invito chiunque a rivedersela, cioè è in quella serie di documentari che c'è anche su Disney Plus, ma da qualche parte su YouTube è stato caricato. Mi ha fatto pensare, cavolo, cioè quello che sta dicendo mi sembra lo stesso ragionamento che fanno in The Last Jedi, cioè negli ultimi Jedi. Quello che vuole dire la storia mi sembra più o meno la stessa cosa che sta dicendo lui, cioè i punti che vengono espressi, insomma, nella storia, indirettamente o direttamente, sono più o meno gli stessi. Infatti, poi ho cercato e a lui è piaciuto di Jedi, a dei Filoni. Però, siccome, non so, cioè, la fandom è strana, per qualche motivo, cioè, dei Filoni è visto come il messia, il Mandalorian è visto come la cosa più bella mai fatta da Star Wars negli ultimi secoli, e invece di Jedi no. E secondo me è perché The Mandalorian dice molto meno cose, cioè è molto più come il vecchio Star Wars in un certo senso, cioè è molto più, ma letteralmente, cioè a Dave Filoni non gliene frega una mazza di dire qualcosa di suo, Ci sta, ci sta. Come a Dave Filoni è solo una propaggine di George Lucas, e lui lo dice, cioè a me abbiamo già cambia. detto, alla gente non piace il cambiamento, piace sempre la cosa. Vogliono che i nuovi giochi dei Pokémon siano sempre uguali e anche E la cosa riesco che. a tornare sempre lì, Jacopo. Esatto, la cosa che mi fa incazzare è che Gli Ultimi Jedi è un film per i vecchi fan di Star Wars e loro non se ne rendono conto perché non vogliono una cosa per loro, vogliono giustamente che Star Wars sia per bambini, perché Star Wars è per bambini, cioè è sempre stato per bambini. Vabbè, questo è un discorso, Sì, scusate, occhio a questo è non un. Sì, perderci in argomenti da trattare su un altro podcast. sicuramente, scusate. Poi so che già Salla ha 500 cose che non gli vanno bene di questo discorso, che sicuramente non ho ragione, però. Va bene, ok, dicevamo. Quindi c'è questo Battlefield 1 che poi ha anche altri problemi a livello di dissonanza narrativa, però volevo citare questo momento così. C'è un'altra missione in Battlefield 1 che però è raccontata dalla prospettiva di un soldato italiano, cioè questo soldato Carino. italiano che racconta di questa appunto missione sui monti, mi sa, piemontesi. C'è un nome di un monte specifico, non mi ricordo se è in Piemonte, dove c'è stata questa battaglia famosissima e lui c'aveva questa armatura addosso. E diceva, io mi sentivo invincibile dentro quell'armatura. E nel gioco sei invincibile, ma non perché lui davvero era invincibile, ma perché lui sta raccontando questa storia. Carina. È una cosa carina, ma molti l'hanno vista come una cosa cioè una cosa irrispettosa, no? Cioè voler presentare questi soldati come invincibili. Vorrei appiattire così il loro sacrificio su quel monte, eccetera. A me è piaciuta come idea, però vabbè, ci capisco anche che possa sembrare un po' banalotta. Comunque, vabbè, dicevamo, giochi che non hanno dissonanza narrativa, Hotline Miami, per esempio. Okay. Perché quello è, quello fai, cioè ammazzi e basta. Life is Strange, non posso dire perché. Outer Wilds, non posso dire perché. Giustamente. Life is Strange, abbiamo detto, Mirror's Edge. Allora, diciamo, lasciando perdere un attimo la trama nel complesso di Mirror's Edge e anche di Breath of the Wild, secondo me la cosa bella di quei due giochi è che ci sono dei momenti dove tu tecnicamente potresti fare male, potresti usare delle armi, ma il gioco ti fa capire che è meglio di no. Ovvero, Mirror's Edge, quando tu disarmi un nemico, gli puoi prendere l'arma, i proiettili sono limitati, prima di tutto. La mira e il modo in cui spari è un po'... sembra quasi naturale, perché tutto il gioco è quasi tutto in parkour, è quasi tutto in movimento, eccetera. Il gioco sembra volerti dire, se tu ti fermi qua e usi quell'arma, perdi tempo, perdi velocità, non è più importante, quella persona che ha cui tolto l'arma non ti può più fare male. Se tu premi un pulsante, non è che lasci l'arma, proprio se non mi ricordo male, come si dice? Disassembli? La disassembli, sì. La smonti. Quindi quell'arma è inutilizzabile poi. Che secondo me è una cosa bellissima, c'è un gioco in prima persona dove le armi sono così sconsigliate, così parte di un'esperienza, cioè così quasi un appendice all'esperienza, secondo me è una idea bellissima. Cioè, tu sei lì per correre, per scappare dal conflitto. E Zelda Breath of the Wild, invece, quando sei a cavallo, se ci fai caso, se non mi ricordo male, tutti quanti i comandi che ti vengono mostrati come consiglio sullo schermo sono comandi per accarezzare il cavallo. Cioè, non c'è manco un comando che ti dice così sfoderi la spada e ammazzi la gente. Cioè, quando sei a cavallo, accarezzi il cavallo. Nel senso, è quello. Che è una cosa bellissima. Cioè, se uno ci pensa, i comandi che ti vengono consigliati, che ti vengono mostrati sullo schermo, sono un consiglio anche di cosa fare, cioè non come farlo. Nel senso, come dicevo prima, no? Cioè, ti influenza in qualche modo. E questo no, non posso dirlo ancora. Questo, beh, arriverà anche in un gioco di cui parleremo dopo. Quindi niente, questi sono un po' gli esempi che volevo fare Ci sta. in positivo. Ah, e Papers, Please, vabbè, pure quello, giocatelo, bellissimo. Mi dai un secondo solo, devo allontanarmi un attimo, torno subito. Tranquillo, allora parlo di Papers, Please nel frattempo. Perfetto, dai una descrizione di Perché, Paper Script. esatto, Papers, Please effettivamente non spoilerò nulla a raccontare un po' che cos'è. Papers, Please è un gioco di un genio, che non mi ricordo come si chiama, ma dovrebbe essere lo stesso che ha fatto Return on the Obra Dinn. Ed è un gioco che narra di questo, come si dice? Ah, Lucas Pope, esatto. Narra di questo burocrate, di questo funzionario che lavora al confine di questo stato, chiamiamolo dell'URSS, stato sovietico, durante la guerra fredda. E quello che fa è controllare i passaporti, i documenti di persone che vogliono entrare in questa nazione. E la cosa divertente è che, divertente, vabbè, a livello di gameplay, la cosa interessante è che questi requisiti cambiano. Quindi prima devi controllare da dove vengono. Poi controllare che appunto tutto il passaporto sia valido. Poi ci saranno documenti aggiuntivi, devi fare dei controlli incrociati, cose così. E il gioco, perlomeno per me, ti spinge un po' ad entrare in questa zona di concentrazione, che a volte ti rendi, cioè, perdi come posso dire, l'idea, cioè perdi un po' la concezione, il contesto di quello che stai facendo, perché teoricamente tu potresti giocare quel gioco come ho fatto io la prima volta, semplicemente come un puzzle. Tu devi fare quello e lo fai. Ma se ascolti le persone, se ti rendi conto di quello che sta succedendo e capisci il sottotesto, tu puoi fare delle scelte che hanno delle conseguenze per la famiglia del protagonista, per la storia, eccetera, a molti finali, il gioco, eccetera, però ha anche conseguenze appunto di trama. E, cioè, è molto fatto bene, è molto anche lì sottile come trama, come scelte, e è molto molto bello. Quindi giocatelo, è anche molto facile da giocare, nel senso non è un gioco che ti richiede particolari riflessi o abilità, cioè è un gioco che chiunque può imparare piano piano appunto con il mouse, con il dito, non ha particolari controlli complicati. Che altro? Di esempi diciamo positivi di giochi che non hanno dissonanza narrativa non me ne vengono in mente altri, sinceramente. Oh sì, direi che ci siamo. Magari qui metterò la sigla, perché stiamo per parlare di il nostro caro e vecchio Kojima. Kept you waiting, huh? Quindi dicevamo di Kojima. Appena ho detto la parola è tornato. Lo chiamo, è più forte che mai. No, quindi cosa mi sono perso? Abbiamo detto di Papers, Please. Qualcos'altro da aggiungere prima di arrivare al momento Kojima? O siamo già a quel no, punto? No, siamo già dentro il momento. Siamo già dentro il momento. Stiamo vivendo. Uno non fa in tempo ad allontanarsi un attimo, che già arrivano i momenti Kojima così, a sorpresa. A sorpresa, non direi tanto. Beh, con Kojima è tutto a sorpresa. Giustamente. Kojima, che cosa ci ha regalato Kojima che presenta un po' di dissonanza narrativa? Stavi già dicendo qualcosa o... No, aspettavo te perché... Giustamente. Tu sei più ferrato a riguardo. No, io diciamo forse ce li ho un po' più freschi perché li ho vissuti molto attraverso Sabak ultimamente con le sue opere, sulle opere, che... appunto risalgono a un annetto fa quasi, quindi forse le ho un po' viste tutte di fila, a maratona, binge-watchate tutte, per cui forse le ho un po' più fresche. Jacopo però ha avuto il vantaggio di averle giocate con mano in vari momenti della sua vita, immagino. Per cui, dissonanza ludonarrativa in Kojima c'è, non c'è? Forse c'è un po'. Tu che dici? Abbiamo detto sì, ma forse è intenzionale. Esatto, e di nuovo è quello che mi riferivo prima, che alcune dissonanze non narrative ci sono, però va bene, nel senso non è che ci danno così tanto fastidio, perché ecco, forse va anche detto che magari bisogna fare attenzione dove, come dicevi prima, quella dissonanza ludonarrativa che c'è in Hitman. Tu l'hai notata perché però viene usata in maniera costruttiva per creare comicità, per creare un fattore di divertimento in più, appunto questa cosa dell'assurdità di alcune morti, di alcune uccisioni nei vari livelli del gioco. Stessa cosa qua, direi, in alcuni giochi di Kojima in cui una storia molto seria viene contrastata da questi momenti di comicità, questi momenti che creano dissonanza con la storia in sé, ma che servono appunto per creare un po' di divertimento, un minimo di spensieratezza in una storia che altrimenti sarebbe veramente pesante e lugubre sotto certi punti di vista. Sicuro? Dimmi pure la tua, io sono... No, è che... Kojima è strano, è una persona. Kojima è strano, questo può racchiudere tutti i momenti Kojima. È una persona, secondo me, che ha una comicità un po' deviata e come sì. Molti giapponesi ha anche una sessualità un po' deviata. Ops, scusami, mi dissocio, però cioè, come diciamo con l'episodio sulle visual novel, ci sono dei momenti che a noi occidentali, nei videogiochi giapponesi, lasciano un po' perplessi. Per usare un eufemismo. Nei giochi di Kojima ci sono pure. Quindi l'esempio quello di Quiet che si fa la doccia sotto la pioggia, balla sotto la pioggia. Quiet come personaggio in generale sarebbe discutibile, però vabbè. Mm-hmm. ci sono tanti, tanti, tanti esempi di personaggi fatti male o usati per ridere, scenette divertenti in un gioco che in realtà divertente c'è ben poco. Però a livello di game, cioè differenze fra gameplay e storia, secondo me non c'è troppa dissonanza. Cioè, nel senso, sì, è vero che in Metal Gear Solid 2 puoi sparare ai bicchieri di ghiaccio e guardare il ghiaccio che si scioglie. O è vero che in Metal Gear Solid 5, cioè, puoi fare delle mosse tipo, che ne so, buttarti da una pendenza sulla scatola e investire i nemici o farli impazzire con 500 copie gonfiabili di te stesso che dice "catch you waiting, huh?" Cioè, puoi fare tutte queste cose, ma secondo me non è come in GTA. Cioè, il gioco non ti spinge a farle, mettiamola così. Cioè, il gioco ti dà la libertà, è vero, però non ti mette nelle condizioni, come tono, di prenderle come canoniche, di prenderle come questo è quello che... E non ti mette neanche nelle condizioni completamente di dire questo tono è completamente diverso da Metal Gear, perché Metal Gear stesso è un discorso meta, è un discorso che non si prende sul serio, è un discorso che fa Kojima a noi, non so come dirlo. Non nasconde mai di essere qualcosa che parla di se stesso. Non so come scriverlo. Sì, è molto... Cioè, a volte la quarta parete non esiste neanche, non cerca nemmeno di romperla, perché proprio non c'è, tu dici. Non c'è mai stata, esatto. In effetti qua viene da chiedersi qual è la differenza tra voler mettere un po' di comicità e invece da esserci una vera e propria dissonanza ludonarrativa, perché magari... cioè, magari una scena risulta essere divertente e dissonante, però in quel caso, siccome è stata fatta con intenzione, con l'intenzione di far ridere il pubblico, la dissonanza non esiste veramente. Come, non so se no. Mi sono spiegato con questo, con sì, questa affermazione. Cioè, ti ho spiegato, cioè, per me la tizia che dice come Mario Princess Beach, io la prenderei a schiaffi e farei con uno schiaffo solo, prenderei anche Kojima. Però non è dissonanza ludonarrativa, quello, okay. Secondo me. Non è dissonanza ludonarrativa. No, secondo me quella è più una nota stonata nella narrativa, capito? Cioè più... Ok. Perché sì, cioè dici non è tanto, perché lì non si tratta di meccaniche e cose del genere, lì è una brutta scena in un film. Sì, perché di nuovo dissonanza ludonarrativa è quando le meccaniche del gioco si scostano dalla trama che vuole raccontare. Cioè, per me è più dissonante vedere Snake con il cappello da pollo in una cutscene o che va in giro, che ci può stare, per carità, però cioè, quello mi sa più di dissonanza. Sì, diciamo che di nuovo lì bisogna sempre parlare di meccaniche e narrazione per parlare di ludo narrativi, dissonanza ludo narrativa. E anche lì si può pensare forse magari alcune quest nell'ultimo gioco di Kojima, Death Stranding, che possono sembrare un po' macchinose per la storia che si sta svolgendo nel resto del gioco in quel momento, ma a parte quello, come dire, sì, l'unica cosa che potrebbero risultare molto, secondo me, molto contrastanti sono questi momenti di estrema comicità, estremo, almeno tentativo di comicità, che a volte magari in Occidente viene male interpretato, perché di nuovo la comicità giapponese, soprattutto rispetto a quello occidentale, è molto diversa. E però a parte queste non me ne vengono in mente tantissime. Penso che un punto di forza nei giochi di Kojima è che spesso anche il gameplay sia coerente con la storia che vuole raccontare il gioco, ed è per questo che Metal Gear Solid 5 fa schifo. No, Abbiamo scritto per ricordarci una frase importante. Konami ha dato a Kojima il pargolo in fascia e poi ha dato una martellata sopra. Accidenti, non mi ero dimenticato di quella parte. Come ci eravamo arrivati? No, beh, il solito discorso di Metal Gear Solid 5 cioè stroncato. Che c'è, diciamo, era... Ah, ecco, sì, avevamo detto che in alcuni dei titoli di Metal Gear... forse Kojima si era lasciato un po' più andare perché nemmeno lui ci aveva più tanta voglia di farli. Vedi, per esempio, a me veniva a pensare principalmente al 4 e al un po' forse anche al... Beh no, al 3 in realtà ci stava ancora. Principalmente al 4 io pensavo, con le Beauty and Beast e varie cose. Anche in cui anche... Come, scusa? No, ho detto un titolo che non esiste, scusa. Hai ragione. Però lì, come dicevamo, Kojima non si sentiva più tanto di fare quella saga, ha detto che era arrivato a un punto di aver raccontato tutto quello che voleva raccontare e la Konami ancora lo costringeva a lavorarci sopra. E poi avevamo riflettuto su come con il quinto titolo, The Phantom Pain, lui si avesse ritrovato un po' l'interesse, voleva raccontare che cos'era successo a Big Boss prima che partissero tutti gli eventi di Metal Gear Solid. E poi la Konami che gli aveva ridato in mano il suo pargolo, poi l'ha presa a martellate sulla testa prima della pubblicazione, tutto qui. Ci stava che volevo spiegare prima che i nostri ascoltatori si preoccupassero che volessimo martellare pargoli sulla testa. È una bellissima immagine. Incitare a martellare pargoli sulla testa. Quindi, innanzitutto grazie per aver parlato un po' tu questa settimana, che ti ho rubato perennemente il microfono con le ultime puntate in cui hai lasciato che la mia follia fosse trasmessa in mondo visione, per così dire. Quindi ringraziamo Jacopo, io che sono Marco. E io che sono Jacopo ringrazio Marco per avermi lasciato che parlare, che sei tu, che incredibile. E speriamo che vi sia piaciuto questo episodio molto poco sapio o molto sapio. Dire molto, anzi forse troppo sapio per troppo sapio. Voi ignoranti, no, non diamo dell'ignorante. Grazie per averci ascoltato. Grazie a voi siete il pubblico, voi, per averci ascoltato. Ci vediamo al prossimo episodio e, come diceva Jacopo, continuate a giocare a Fortnite. Va bene anche quello. Ciao a tutti.